Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Anna non mi fa domande? No, io evito. Non lo so. Allora ti faccio una io. Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo questo. Grande Leo! Voi non dite che non ve l'avevamo detto, eh? Ve l'avevamo detto ieri, senza sapere nulla. E senza citare i promessi sposi, il matrimonio si farà tra Leonardo e Anna Billò, forse anche tra Leonardo e l'Inter. 800240024. Perdonatemi, è estate, il 30 luglio, siamo qui in diretta per voi. 800240024, messaggi 349-238-6666. Poi c'è il Napoli che ieri sera ha esordito giustamente con la sordina per quanto è successo di ben più grave ed importante lì vicino. C'è il Napoli che ha evitato giustamente di presentare con i lustrini Higuain. Poi c'è la Formula 1 di cui dopo parleremo, perché Montezemolo l'ha esternato dopo Alonso. Poi c'è il nuoto con Federica Pellegrini, che questa mattina si è presentata ai blocchi di partenza dei 200 stile libero senza dire niente a nessuno, eh. Caramba che sorpresa. Lucas le ha detto: Fede, vai e divertiti, perché no? E le è andata a terzo tempo, ma ci voleva per una spedizione italiana che è un po' depressa in questi mondiali di Barcellona. Voglio però partire dal calcio con il mio amico Pierluigi Pardo, Mediaset Premium, uno dei miei interlocutori privilegiati. Ciao! Come va? Tutto bene? Fantastico, benissimo, benissimo. Voglio di fare un bagno, ma fa niente, me la tengo. Che è una cosa comune, io invece... vado a Monaco di Baviera, voglia di fare l'Audi Cup domani, quindi insomma... Hai voglia di fare l'Audi Cup domani? Sì, Pinocchio, sì, sì. Io ho sempre voglia di fare, è una cosa patologica, è una cosa veramente patologica, quindi... Però, così, sei malato, tu sei malato, sei malato. Ma sì, ma dai, bellissimo, Bayern, Manchester City, Milan, San Paolo, va bene. Senti Pier, ma allora io voglio sapere da te il matrimonio del secolo, che non è quello tra Leonardo e Anna Billò, ma è potrebbe essere il matrimonio del secolo tra Leonardo e l'Inter di nuovo. Parliamo di fedifraghi, parliamo di... mi vengono parole brutte, ma parliamo di questa possibilità. Toir arriva, mettiamo, ma mi sembra scontato. Toir va a riprendersi Leo con buona pace di tutti i tifosi dell'Inter, del Milan e di ogni sponda del Naviglio. È possibile questo scenario oppure no? Ma è possibile, perché Leo è chiaramente uno di quei personaggi che va sempre bene, no? Nel senso che ha un'immagine, una credibilità, Galliani direbbe un physique du rôle perfetto per fare il dirigente di un grandissimo club, e quindi può essere anche ideale. Per fare il cubista, sì, anche per sposare la Bimbo, che salutiamo. Tra l'altro credo che non esista persona nella redazione di Sky, ma anche in generale, che non sia stato almeno un minuto innamorato della Billò, quindi voglio dire, Leonardo è il sogno di tutti noi, mio non particolarmente, ma insomma è una donna meravigliosa, quindi volevo fare questo auto in pubblico. Volevo dire invece che Leonardo secondo me è perfetto, è tecnicamente perfetto per un proprietario che viene da fuori, che ha bisogno di una grande faccia da calcio di altissimo livello per potersi accreditare. Ci sia un discorso operativo, ma anche un discorso strettamente d'immagine, quindi perché no? Insomma, magari avremo due matrimoni a settembre, non soltanto uno. Sì, ci prepariamo, mettiamo il vestito buono, Pierluigi. Assolutamente. Assolutamente. Poi però Toir ha già detto: tifosi interisti, però state buoni, perché io non vi compro Maradona, non vi compro Messi, non vi compro Cristiano Ronaldo, io arrivo, osservo, metti i soldi, poi vediamo. Beh, anche perché ci sono dei debiti, da quello che mi risulta, insomma. Qualcuno. L'investimento, ecco, l'investimento è un investimento importantissimo. Ma insomma, mi sembra che siamo, fino a qualche tempo fa, potevamo pensare che comunque gli interlocutori, gli investitori che venivano da fuori per forza dovessero essere dei tycoon potentissimi e capaci a suon di fantastilioni di comprare l'impossibile. Il primo fu Abramovic, ci sono quelli di questa categoria sicuramente, pensiamo a Manchester City e a Paris Saint Germain, ci sono poi anche progetti imprenditoriali, non voglio dire più modesti perché può sembrare un giudizio di valore, no? Però che vogliono fare business attraverso il calcio. Io credo che per esempio quello che sta succedendo alla Roma va in questa direzione qui. È chiaro che l'investimento in questo momento che i tifosi della Roma potevano sognare non c'è stato, ma c'è la voglia attraverso questo business di poter fare i soldi, ed è possibile che questo possa essere anche il modello dell'Inter. Ovviamente poi i tifosi dell'Inter auguriamo, sì, invece il proprietario, il tipo all'Abramovic o alla Mansur, che viene e compra l'impossibile. 800 24 0024, voglio voi tra poco. Pierluigi Pardo, fammi la griglia di partenza. Allora, Juventus come la Red Bull di Vettel, no? Con buona pace di Alonso, litigante di Montezemolo, di cui parliamo dopo, che ha bacchettato Alonso. Io l'ho dichiarato ieri e ovviamente resto sulle mie posizioni, sto con Alonso perché è il più forte pilota che c'è, e è il più forte pilota che c'è, che guida una macchina che deve fare, con la quale deve fare numeri per arrivare dove arriva. Ferrari non competitiva, ma di questo parliamo dopo. Tu fammi la griglia di partenza del campionato. Juventus come Vettel, dietro la Juventus chi c'è? Napoli. Sono banale. Io penso no, che banale no, perché in questo momento rispetto all'anno scorso c'è una sola, ma chiaramente è un'analisi che facciamo a fine luglio, il mercato è fino al 2 settembre, c'è una sola notizia sempre sulla carta, cioè il possibile sorpasso della Fiorentina nei confronti del Milan, perché sicuramente il Milan fino a questo momento si è mosso poco, ha avuto una gestione un po' con i fari bassi, poi Galliani spesso il colpo è riuscito a tirarlo fuori, bisognerà capire qui al 2 settembre che bisogna capire se le monetine che ci sono nel salvadanaio bastano. Esatto, la Fiorentina sta crescendo benissimo, ha comprato il giocatore che serviva, il giocatore che l'anno scorso era mancato dal caso Berbatov in poi, nonostante il buon contributo che ha dato Toni, cioè la prima punta di peso capace di trasformare in gol il grandissimo lavoro di tiki-taka della squadra, sta crescendo benissimo. È chiaro che quest'anno c'è un nemico in più potenzialmente per la Fiorentina, che è la pressione, cioè mentre l'anno scorso Montella è partito con la serenità di poter fare pian piano le cose, ci è riuscito molto rapidamente in maniera brillantissima, quest'anno è chiaro che ci sono i titoli, ci sono le aspettative, c'è una piazza calda, meravigliosa per passione, ma anche delle volte capace di creare un po' d'agitazione, perché ovviamente vive tutto in maniera molto molto forte. Però ecco, io credo che in questo momento la Fiorentina sia la terza forza del campionato, e dietro ci sono le due milanesi e le due romane, in un ordine che non so dare. Sparso. Perché la Roma è un'incognita, la Lazio è molto solida, un'ottima squadra, però forse le manca qualcosa per poter essere a livello delle prime tre, e Milan e Inter sono... L'Inter, la scommessa è Mazzarri ad oggi, cioè la capacità di questo allenatore di tirar fuori il meglio, l'adrenalina, la rabbia di questa squadra e di questi giocatori. Il Milan ha la variabile Balotelli, che è un giocatore che può essere assolutamente dominante, è un'intelaiatura da squadra buona ma non ottima. Esatto. Avviso per loro, signori. Allora chiamatemi 800 24 0024, ma siete al mare? Dove siete? 800 24 0024 per parlare con noi. Dunque, abbiamo disegnato con Pierluigi Pardo la griglia di partenza. Ieri sera abbiamo visto i primi exit poll del Napoli. Sul Milan sono d'accordo. La vera novità, Pierluigi, di questo mercato sono De Laurentiis, che fa lo sceicco, che fa vedere, lo dico tutti i giorni ma è una cosa che non riesco a capire, dunque è un tarlo che mi rode anche di notte, fa vedere 124 milioni e mezzo al mondo, e poi gli vendono Albiol per 12, gli vendono Higuain per 40, e questa strategia io sinceramente non la capisco. Sì, però, quindi... allora io penso questo, io penso che forse il Napoli non ha comprato benissimo, cioè Albiol si poteva comprare a meno, forse anche Higuain certo. Si poteva comprare a meno. Detto questo, però, io credo che Napoli sia più forte dell'anno scorso. Cioè, io penso che alla fine, molto spesso, le cessioni dolorose, quelle che strappano proprio il cuore ai tifosi, delle volte diventano qualcosa di straordinario. Io mi ricorderò sempre dell'anno della partenza di Ibrahimovic dall'Inter, che sembrava una catastrofe, e di fatto l'Inter, spendendo i soldi, vendendo strabene quel giocatore e comprando i vari Eto'o, Lucio e Schneider, riuscì a fare il triplete. Sì. Ho la sensazione che delle volte si rimane tutti un po' vittima, parlo in generale, dei sentimenti e della difficoltà ovviamente di privarsi di uno come Cavani. Però se tu Cavani lo vendi a 64 milioni e compri Higuain, prendi Benitez, prendi Callejon e hai Reina, che comunque è un portiere che ti dà garanzie, e ancora continuerà a fare cose, perché ho la sensazione appunto che De Laurentiis si stia gasando in questo suo ruolo di spendaccione. E insomma, io credo che Napoli oggi sia più forte dell'anno scorso, anche se sicuramente questo effetto c'è stato, cioè quando De Laurentiis ha detto 120 milioni pronti, non è che gli altri club non leggono i giornali, quindi no. Piccolo c'è stato un po' lo stesso effetto che avviene con il Paris Saint Germain o con il Manchester City. Ma tu certo, dagli a me, c'hai i soldi, dammeli. Dammi quei soldi. Senta, allora Martino, c'è chi mi scrive. Un giocatore fantastico, però insomma, 35 milioni insomma, è ancora, secondo me, chiaramente è un fenomeno. Però no, ma facendo discorsi, milioni... scusami Pier, ma facendo, sì. Mentre Stefano su Twitter mi scrive: Ladies and gentlemen, Mister Genta dopo la sigla di oggi conduce Tutti Innamorati, vi aspettiamo numerosi. Beh, Leonardo, Anna Billò, Tutti Innamorati, troppo bello per glissare, quindi Tutti Innamorati va bene. 30 luglio con loro signori impegnati con i ghiaccioli alla menta, ci sta. Sulla su qualunque spiaggia, mentre noi siamo qui a parlare con voi. 800 24 00 24. Però quello che ti dico è: qualche conto non mi torna. Marquinhos per quei soldi 35, se non ricordo male, al Paris Saint Germain, Higuain 40, Albiol 12. Alla fine l'affare l'hanno fatto quegli spendaccioni dello United, che si prendono Jovetic per 25, e per 25 io uno come Jovetic lo prendo subito. Dall'altra parte vedo invece il Real Madrid che sta provando a dare al Tottenham anche le mutande, e non capisco perché, per Gareth Bale, che è bravissimo giocatore, forse un campione, ma un esterno sinistro non ti ha mai risolto la vita, come ha fatto invece Anna Billò con Leonardo. Sì, anche se devo dire che Bale nella sua fase più compiuta è diventato molto di più di un esterno sinistro. A parte sì, che certo, era un esterno sinistro che faceva certamente più di 10 gol giocando, sì, da terzino, certo, quest'anno ha giocato anche da trequartista. Io penso che Bale sia un giocatore fantastico ed è veramente nella top 5. Sì, ma per quei soldi sono però troppi. Però 98 milioni, 90, sono cose assurde, sono cose che non hanno senso. Infatti io finché non lo vedo non ci credo, però pare che lo vedremo, e quindi per carità, insomma, evidentemente... Oh, fatti loro, va bene. No, ma per carità. Tanto non li mettiamo mica noi. Se avanza qualcosa, anzi, noi... Se qua, alla prossima puntata diamo l'Iban, Sì, tranquillamente, possiamo fare anche subito. Io non me lo ricordo a memoria, perché è lunghissimo, è incomprensibile. Io sì. Pierluigi, grazie. Ci grazie sentiamo. A te, grazie a voi. A presto, e spero di frequentarti sempre di più nelle prossime puntate di Tutti Convocati, con grandi novità a settembre. Giuliano Mantova, 800 24 00 24, perché io non lasciatemi da solo, ragazzi. 30 luglio io sono qui a parlare con voi dentro a un microfono. Siete in spiaggia, lo capisco. C'è la moglie che dice: ma sempre il calcio, ma siamo d'estate, adesso giochiamo a pallavolo. Invece no, siamo qui a parlare con voi, dunque vi aspetto. Giuliano Mantova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Carlo, buongiorno, grazie della convocazione. La chiamo dalla spiaggia con un computer, una scrivania e delle pratiche da sbrigare. Cosa dice la signora? La signora basta calcio, piantala, hai tutto l'inverno. Carlo, velocemente, mi incuriosisce il mercato di quest'anno, perché ci sono molte squadre anche di prima fascia che non hanno ancora il portiere. Si può spiegare qualcosa? Io faccio fatica a capire come possano allenarsi in ritiro senza avere il portiere, dal quale nel gioco moderno spesso parte il gioco offensivo. Se mi dà qualche spiegazione la ringrazio. E c'è il giro dei portieri, Giuliano, spiegazioni non ne ho tantissime, però insomma l'Inter ce l'ha Handanovic, il Milan ce l'ha Abbiati confermato, la Juventus ce l'ha ovviamente Buffon, il Napoli ha preso Reina. Resta scoperta qualche porta, Julio César da una parte o dall'altra, a Roma non arriverà perché c'è De Sanctis, dunque è facile fare il gioco delle caselle, di conseguenza è stato un gran giro di portieri, ma siamo agli sgoccioli. Poi lei dice, o tu dici giustamente nel gioco moderno, il gioco parte nel calcio moderno, il gioco parte da lì, e cioè dai piedi del portiere, ed è vero. Però sono portieri di cui non da scoprire, di cui si conosce morte, vita, miracoli, pregi e difetti. Dunque io credo che presto le ultime caselle rimaste vuote andranno a riempirsi, e mi sembrano tutti ottimi portieri. Dunque la credo che la storia sia questa. Certo è stato strano, però insomma è stata un po' l'estate del portiere, anche se è un ruolo che non eccita la fantasia, non solletica la fantasia dei tifosi come gli attaccanti. Tutti convocati. Pessime notizie per chi scrive: tra le novità ci sarà anche un nuovo conduttore per lo sport. No, vi beccate sottoscritto, ragazzi, è peggio per voi, lo so che qualcuno gradirebbe altre cose, ma c'è il sottoscritto, e quindi stay tuned. 800 24 0024, Domenico, provincia di Bari. Pronto, buongiorno, sono Domenico, telefono dalla provincia di Bari, complimenti per la trasmissione, vi seguo. Grazie. Ogni giorno. Grazie. Sono un tifoso dell'Inter, volevo sapere se l'Inter può essere la mina vagante l'anno prossimo per il campionato. Sì, sì, può esserlo, io credo che possa essere il ruolo dell'Inter nella prossima stagione, almeno per come è disegnata adesso, con Mazzarri che già ha cominciato a lamentarsi un po', o comunque a nascondere le reali potenzialità di questa squadra, ma lo scudetto è lontano, ma c'è chi è più forte di noi, ma dobbiamo lavorare tanto, ma siamo solo all'inizio, tutto vero, per carità. Io credo che la vera grande novità di questa stagione nel complesso stia nel fatto che le milanesi non hanno fatto e non faranno mercato, quantomeno ad alto livello. Certo, Fiorentina e Napoli e anche la Roma partono con le carte maggiormente scoperte rispetto alle due milanesi. Vero quanto diceva prima Pierluigi Pardo, almeno secondo me, che la Juventus prima fila ma con distacco di un secondo e mezzo sulla concorrenza, se vogliamo rimanere nella parafrasi della Formula 1, e dietro la Juventus il Napoli, dietro il Napoli con ogni probabilità Roma e Fiorentina, le milanesi invece partono coperte e possono essere effettivamente così le outsider, gli underdog, per dirla all'americana, un ruolo che non è abituale per le due squadre di Milano, però i tempi sono questi. Vedo il Milan un po' più competitivo dell'Inter, quantomeno perché è più rodato, quantomeno perché ha Balotelli, quantomeno perché ha un grande attacco. Però è certo che, insomma, state a guardate il mercato, insomma, il Milan che è lì a trattare l'euro e mezzo per l'acquisto di Onda, che comunque è un giocatore forte ma non di quelli che ti cambiano la vita. Il Milan che si fa male Bonera e tutti si mettono le mani nei capelli, anche questo non è un buon segno, e va a prendere Silvestre dall'Inter su questa tradotta che collega le due sponde del Naviglio, che ormai è in funzione da anni. L'Inter che voleva Isla, non è riuscito a prenderlo dalla Juventus, vorrebbe Zuniga, vorrebbe Kolarov, tutti giocatori bravi e funzionali alle esigenze di Mazzarri, ma non giocatori che ti cambiano la vita. Dall'altra parte vanno a prendere Higuain, vanno a prendere Mario Gomez e dunque vanno a prendere Strootman e Maicon, sono più esposti al sole di questo mercato. Poi sappiamo che il sole d'estate è bello da prendere, ma scioglie il ghiacciolo tricolore. Poi vediamo quando si comincia a giocare a pallone. Francesco, provincia di Gorizia, 800 24 00 24. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, grazie. Volevo parlare, se possibile, un attimo di Formula 1. Volentieri. Allora, secondo me ad Alonso va fatto un monumento, perché sta guidando in una maniera anche quest'anno strepitosa una macchina che non va. E secondo me, più che altro, il grande problema della Ferrari non sono tanto gli uomini, ma le strutture, come il simulatore e la galleria del vento, che regolarmente producono pezzi che non vanno sulla pista. Lei cosa ne pensa? Io la penso come lei. Non ho molto da aggiungere, al di là delle... Non sono in grado di fare un'analisi approfondita, ma tra poco la facciamo con chi è in grado di farla. Sulle strutture tecnologiche di cui la Ferrari dispone, io so che la Ferrari dispone di un budget elevatissimo. Sono invece totalmente d'accordo sul fatto che Alonso sta facendo i numeri per riuscire a tenere in linea di galleggiamento, e quindi in prospettiva mondiale, sebbene molto teorica al momento, la Ferrari, una macchina che attualmente competitiva non è. Oggi abbiamo letto tutti le esternazioni di Luca di Montezemolo, presidente della Ferrari, che bacchetta sulle dita Alonso, pensa a guidare. Ferrari che invece ha operato una scelta importante dal punto di vista così strategico, Pat Fry allontanato, è stato preso Ellison che lavorava con la Lotus, terzo direttore tecnico che cambia in 3 anni, segno che le cose non stanno andando bene e questo è un segreto di Pulcinella. Io credo che Alonso sia il più forte pilota del mondo, il più forte pilota del mondo estremamente frustrato, perché questa è la parola giusta, perché da 4 anni non ha la macchina che in grado di vincere lo scudetto. Quindi io lo capisco Fernando Alonso, anche se magari quelle cose è meglio dirle sempre, per usare un gergo calcistico, nello spogliatoio, però in fondo capisco anche le esternazioni, le frustrazioni rese pubbliche da un campione dopo tante corse, dopo tanti gran premi andati storti, dopo che vedi la McLaren, la Mercedes sfrecciarti davanti, la Lotus che sta davanti a te, e quindi basta fare 2 conti, valiamo 7º-8º posto, dice Alonso, il che mi sembra realistico. Ci fermiamo, dunque, no, non è che ci fermiamo, introduciamo e continuiamo a parlare di questo argomento anche con voi e anche con l'ospite che ci aspetta, 800 0024 0024. Da 4 anni che avevo una macchina tra mezzo secondo e un secondo più lenta del leader, che abbiamo lottato sempre fino alla fine per il campionato del mondo, quindi non penso che sia diverso quest'anno, lotteremo fino alla fine e sarà sulle nostre mani se facciamo tutto a posto. Mancano ancora 9 gare e tutti quei punti in gioco sappiamo che dobbiamo dire ancora la nostra. Walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. Purtroppo oggi, inutile negarlo, non siamo stati competitivi, non avevamo il passo gara in nessuna condizione, né con le medie né con le morbide, quindi abbiamo purtroppo sofferto questa carenza di prestazione, quindi siamo arrivati dove siamo arrivati per questo motivo. Inutile dire delle cose inutili. Non so se il mio amico Leo Turrini, penna illustrissima, non solo di non esagerare con i complimenti, perché sennò fa il bravo. Perché adesso litighiamo, le nostre strade qui si dividono. No, io mi trovo costretto a dire che Carlo Genta e Lewis Hamilton dei conduttori radiofonici. Anche perché poi si dice. Speravo dicessi Alonso che per me è il più forte. No, guarda, dall'alto della mia presunzione. No, ti spiego la mia teoria. Io credo che Alonso sia un grande campione, un uomo che sta spendendo anni della sua carriera al servizio della Ferrari. Io comprendo la sua frustrazione, perché capisco che vedi per il 4º anno consecutivo allontanarsi il sogno del titolo eredato, e quindi ti possono un po' anche girare, non dico cosa, però sì. Sinceramente, caro gente, siccome tu sai che per me sei un mito, sei quello che Quincy Jones era per Michael Jackson, anche se prima forse avevi messo in sottofondo Rihanna, non va bene. Ma shut up è quello che Montezemolo ha detto. Bravo. Ad Alonso sul suggerimento. Bravo. Di Leo Turrini, ecco, però non va bene, attenzione, non perché va io, bene, io qui svelo le cose, sei informata. Bravo. Non va bene, allora raccontami questa. Tutto, ti racconto tutto. Allora, intanto non va bene che Alonso, in una situazione di disagio per la Ferrari che coinvolge anche il pilota, esca pubblicamente a dire le cose che ha detto, perché non sono d'accordo. No, fammi finire, poi dopo ti opporrò. Sì, certo. Se si tratta di un mal di pancia la Ibrahimovic, vuoi cambiare squadra, come si dice, il mal di pancia di Ibra, sono diventati un classico letterario, vabbè, allora devi essere esplicito, la facciamo finita e è morta lì. Se invece credi nell'esperienza che stai vivendo, non devi pubblicamente creare ulteriori problemi a una squadra, a una scuderia che ha un disagio innegabile, perché negli ultimi 50 giorni io e te ci eravamo sentiti dopo Barcellona, sì. La Ferrari e Barcellona aveva dominato, è evidente che quello che chiamano sviluppo progettato a Maranello è andato in una direzione sbagliata. Non c'è bisogno che ce lo venga a dire Alonso che guida la macchina, lo vediamo tutti, anche noi che stiamo davanti al televisore la domenica, no? Sì. Dopodiché io, visto che tu mi chiedi una rivelazione, ieri mattina, lunedì, all'indomani della gara in Ungheria, molto triste per noi ferraristi, ho mandato un sms all'avvocato Montezemolo, ho detto guardi, bisogna che lei però intervenga, perché se Alonso, come Prost nel 91, ha pensato, deciso, non ci crede più e quindi vuole cercare altrove il suo futuro professionale, noi non possiamo restare in mezzo al guado e lei deve intervenire. E lui mi ha risposto nel giro di 30 secondi, perché ancora, se non altro, in Italia gli sms funzionano, ieri mattina, dicendomi stia sicuro che lo farò. E nel pomeriggio ho fatto questo intervento che io, contrariamente a te, condivido pienamente, perché se tu sei Fernando Alonso, guidi per la Ferrari, le cose non stanno andando bene, quello che devi spiegare, dire, come faceva il vecchio zio di Kerpen che si chiamava Michael Schumacher, lo dici nelle private stanze, i tuoi ingegneri, i responsabili del reparto corse, e non fai casino in piazza. Io capisco che siamo l'Italia di Grillo e tutto il resto, ma dobbiamo anche ritrovare l'idea che non è... Però, Scusami, io ti voglio bene come nessuno, però su questo non sono d'accordo con te, ma per fortuna una volta nella vita, io invece apprezzo Michael Schumacher, vedi lapsus freudiano, apprezzo Fernando Alonso, che è Fernando Alonso, ha 32 anni e forse sta invecchiando anche lui, è 4 anni che vive un'enorme frustrazione su una macchina più prestigiosa del mondo, sulla macchina che tutti vorrebbero guidare, e non ce la fa più e dice vorrei una macchina come quella degli altri. Davanti alla Ferrari è passata la Mercedes, è passata la Lotus, dunque può starci anche l'esternazione, no? La dichiarazione pubblica. No, lo capisco, ci mancherebbe altro. Poi io Fernando lo conosco, ha compiuto gli anni, lo scorso festeggiamo insieme io, lui e mia moglie il suo compleanno. Figurati se non mi rendo conto di quello che può attraversare la sua mente, anche perché non solo per colpa della Ferrari Alonso ha vinto l'ultimo titolo mondiale 7 anni fa, e sono solo 4 stagioni che ha Maranello, quindi sono consapevole che abbia la visione della clessidra, la sabbia che scorre, questo Vettel che è più giovane, che è anche antipatico tra parentesi, perché se Raikkonen, che lotta per il titolo con lui, gli rifiuta il secondo posto, questo dice subito Vettel via radio, fate intervenire la giuria, no? Il bambino capriccioso. Quindi figurati, io Alonso umanamente lo comprendo perfettamente. Il problema è, caro amico, caro gente, tu che sei il numero uno nel mondo a livello radiofonico, ma chi c'è dietro questa roba di Alonso? Dai, ma andiamo sul pascia blu, chi è il manager di Alonso? È il marito della Gregoraci, è il signor Flavio Briatore. Queste non sono cose che nascono così all'improvviso, come pensi tu, da frustrazione, perché oddio, ancora una volta rischio che il mio entusiasmo venga vanificato. Allora aspetta un attimo, Leo Turrini, aspetta un attimo, perché hai tirato non un sasso ma un macigno nello stagno. Ma allora è la verità. No, Turrini, aspetta un attimo, ti devo tenere lì, ti devo tenere lì, perché ho la borsa che con tutte le azioni che hai tu nel portafoglio, penso voglia ascoltarla. Io devo aspettare, devo rispettare il palinsesto, però ti tengo lì inchiodato, perché adesso questa me la spieghi. Cioè, dietro le esternazioni di Alonso c'è il grande fratello con i capelli brizzolati, marito della Gregoraci. 800240024, dopo la borsa ancora Leo Turrini. Tutti convocati. Oh merda. Allora, 800240024 e Leo Turrini, torniamo al masso che ha lanciato nello stagno, cioè dietro le esternazioni di Alonso, secondo Leo, che io rispetto massimamente, ripeto, ci sarebbe quel signore con i capelli brizzolati e gli occhiali che è il billionaire, che è protagonista di 1000 pubblicità, sebbene in parafrasi, che è marito della Gregoraci e di cui non faccio nome, viene da Cuneo. Che altri indizi posso dare, Leo? Beh, puoi anche dire che è un sostenitore a livello politico di Daniela Santanchè. Sostenitore a livello politico di Daniela Santanchè, poi... lo disse quando la Santanchè si candidò a premier nel 2008, quindi... Tu mi vuoi male, ma fa niente. No, potrei citare anche Crozza, perché il personaggio in questione, interpretato da Crozza in un'imitazione, sai che c'è la famosa serie su Sky che si chiama L'apprendista, quella roba lì, si vede il personaggio in questione che interpella un signore dai capelli lunghi al quale dice: tu hai 33 anni, sei arrivato a 33 anni, non hai mai avuto un problema, è la prima volta che hai avuto una difficoltà, hai chiesto aiuto a tuo padre. Gesù, tu sei licenziato, no? E questo è il reattore quando fa lì il programma di Trump sul Sky. No, allora, tu Carlo lo sai benissimo, sei molto bravo, Briatore cura gli affari, gli interessi di Alonso, lo fai in maniera magnifica. Io credo che la questione vera, alla luce degli eventi delle ultime 48 ore, Montezemolo e tutto il resto, è se Alonso si è sfogato semplicemente per, diciamo così, esternare la sua frustrazione, allora va tutto bene, si riparte, la Ferrari cercherà di vincere. Tu tra l'altro hai detto prima che Pat Fry, il direttore tecnico, è stato cacciato per prendere James Allison. Non è vero, non è vero? Pat Fry rimane al suo posto, probabilmente, questo te lo dico io, con un ruolo un po' ridimensionato, ma come spiega il comunicato della Ferrari di ieri, Pat Fry rimane il direttore tecnico e Allison è il responsabile dell'area aerodinamica. Però detto tutto questo, che sono solo dettagli, se Alonso, ripeto, semplicemente ha voluto, diciamo così, manifestare un malumore che condivido io, condivide Carlo Genta, condivide Flavio Briatore, condivide Crozza e condivide anche Gesù di Nazareth, che è stato licenziato da Briatore del programma di Sky perché la prima volta ha avuto un problema, ha chiesto al padre, va tutto bene. Se invece Alonso con questa mossa, ispirato dal Pascia Blu, dove stanno Flavione e la Bettina Gregorati, ha inteso attivare una manovra di sganciamento stile Prost 1991 per chi ha memoria, allora non ci siamo più. Io credo che Montezemolo sospetti questa seconda opzione, e questo, grazie anche alla mia imbeccata di ieri, che ti ho narrato prima, giustifica la durezza dell'intervento dell'avvocato col ciuffo a mo' di tetto di cristallo, perché è la prima volta in 4 anni che Montezemolo pubblicamente dice ad Alonso: ma fa benissimo. Ma no, ma da questo punto di vista io capisco. Cioè, il concetto dell'avvocato è: si vince e si perde tutti insieme. Sì, certo, credo, che anche il concetto del Drake, che, io credo che per chi conduce il programma Tutti Convocati questo sia uno slogan inoppugnabile, e con certamente questo, caro gente, ti ho messo in buca. Si vince, si perde, tu tifi Valentino Rossi, Marquez va più forte, hai visto? Perché ma non io, lo, parlare, ma io davanti a Marc Marquez, Leo, io davanti a Marc Marquez mi alzo, mi alzo in piedi e mi metto sull'attenti. Davanti a Marc Marquez io mi alzo in piedi e mi metto sull'attenti. Però si vince e si perde tutti insieme. Guardate, ragazzi. Sì, però Leo, io con te prima di salutare, anche se andrai avanti 2 ore, pubblicamente o non pubblicamente a parlare. Sai che Sting una volta, per diventare ancora più famoso tra le sue fan, disse: io quando parlo con Carlo Genta poi riesco a fare sesso con mia moglie per 7 ore consecutive. Io più o meno con te ormai sto allo stesso livello, capito? E quindi andrei avanti fino alla puntata di domani, no? Sì, possiamo chiedere spazi nel palinsesto, facciamo saltare tutto. Ma meraviglioso, io ti ammiro tantissimo. Senti, adesso io prima di salutarti voglio fare con te 2 passi nella storia che tu conosci molto meglio di me, no? Anche perché sei più anziano, zio. Molto più anziano. No, ma io voglio fare con te 2 passi nella storia. Allora, l'ho fatto anche ieri pubblicamente con Giorgio Terruzzi. Niki Lauda, 75, prova quella macchina, dice questa macchina, parafraso perché siamo in radio, sono le 14:40, questa macchina non va, sto usando una larga parafrasi. Poi va dal Drake, dice questa macchina non va, cambiamo le sospensioni, di quanto puoi migliorare Lauda? 0,5 secondo, se non migliori di 0,5 secondo sei nei guai, che quindi voleva dire ciao. Migliora con Forghieri, migliora di 8 decimi, quella macchina vince il mondiale, poi sappiamo 76 Hunt 77, di nuovo titolo mondiale, eccetera eccetera eccetera, primo pilota superstar nella storia della Ferrari. Alain Prost, il professore, che dice questa macchina è un camion. Adesso arriva Alonso, terzo attacco al potere, terzo attentato alla regina. Guarda, io ti dico una cosa, a parte che sono 25 anni fra 10 giorni che è morto Enzo Ferrari, mi fa piacere che tu mi offri l'opportunità di ricordarlo, perché al di là di tutto è stato uno dei più grandi italiani del Novecento, un simbolo per il nostro paese anche in un contesto tanto difficile come quello attuale. Io credo una cosa, che ci sia sempre comunque la possibilità, in questo caso per la Ferrari, di fare meglio. Non penso che Alonso si sia comportato bene a Budapest, e se proprio arrivassimo per volontà del marito della Gregoraci alle estreme conseguenze, state tutti tranquilli, perché io sto lavorando per riportare Kimi Raikkonen a Maranello, che come avete visto anche domenica per come si è opposto a Vettel, è un grandissimo pilota, è l'ultimo iridato ad avere vinto il titolo con la macchina rossa, e io addirittura ho un'idea che lascio in eredità al mio amico Genta. C'è anche Schumacher a spasso, per me il 2014 può fare una bella coppia Schumi Raikkonen, gli ultimi campioni del mondo, campioni del mondo con la Ferrari. Riportiamo anche Ross Brown, che ormai ha chiuso, ha finito di mangiare banana. Ok, va bene, io sono favorevole a quelli vivi, agli ex no, agli ex no. Tu poi sei tifoso di Valentino Rossi, quindi chiaramente devi sostenere anche me con Schumacher del terzo ritorno. L'ha fatto anche non farmi questo. Io sto lavorando per voi, come si diceva una volta la società Autostrade, lasciatemi lavorare, ragazzi, vi voglio bene, come vi ho già detto più volte, io su Radio 24 a tutti i convocati, ma veramente in qualunque contesto io partecipo. Ricordatevi che Briatore disse a Gesù di Nazareth: sei licenziato perché a 33 anni hai chiesto per la prima volta aiuto a tuo padre davanti alla difficoltà. La Ferrari non finirà con Alonso. Stai facendo impazzire le centraliniste, Leo, smettila per favore, perché sennò le ragazze diventano matte. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata, che sarà prestissimo. Leo Turrini, quando volete un bacione a tutte le centraliniste in questo caso. Ciao Leo Turrini. Allora andiamo di corsa adesso, perché abbiamo un sacco di ascoltatori. 800 24 00 24. Fabio Luca, Francesco Roma, buongiorno Fabio. Buongiorno signor Genta, speriamo che le 7 ore di sesso accadano con me, visto che sto parlando con lei, quindi io volevo parlare di basket. Ci eravamo già sentiti dopo una delle batoste dell'Olimpia in Euroleague. Volevo sapere un po' il suo parere su questa campagna acquisti, visto adesso è arrivata l'ufficialità di mossa. Sembra che quest'anno si stia facendo un po' più le cose con cervello. Ho letto anche di un play 26enne che dovrebbe arrivare, di cui francamente non ricordo il nome. Vorrei sapere un po' la sua opinione su questo nuovo corso Olimpia. Ringrazio e l'ascolto per Rai. Grazie Fabio, ma insomma sono anni che l'Armani attenta al titolo di Siena, finora non c'è riuscita. C'è questa autostrada sempre aperta tra Siena e Milano, lungo la quale sono arrivati un sacco di giocatori. Non è arrivato invece lo scudetto, che è sempre rimasto a Siena. Quest'anno l'allenatore Luca Banchi, quest'anno David Moss, quest'anno il grande rifiuto di Daniel Hackett, che ben conosciamo, e anche questa è una storia insomma che vorrei avere tempo di approfondire, perché è una storia bella, divertente, è una storia interessante di sport con Daniel Hackett, ricordo miglior giocatore dei playoff, una delle grandi star dell'ultima stagione, che di fronte ai pochi denari che sono rimasti a Siena, di fronte ai tanti denari che offriva a Milano, ha detto no, mi riduco l'ingaggio e resto qui a Siena a fare la stella. Ma questo non, secondo me, anche qui sono maligno e malizioso, non perché Daniel Hackett abbia il cuore tatuato di bianco e verde, nonostante tutti i tatuaggi che porta sulla pelle, semplicemente perché dice: faccio una stagione qui da protagonista e l'anno prossimo mi gioco la carta NBA. E in questo è difficile dargli torto. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno Genta, io la riporto in pista se me lo concede. Ma certo che glielo concede. Il suo ospite Turrini mi ha fatto ringiovanire, perché ha richiamato un filo rosso della Maranello di oggi con quello di ieri. Siamo anche in clima rievocativo, no? Perché c'era un Howard che presto ci propinerà sugli schermi un bel film. Sì. E quindi io le dico questo: la Ferrari di oggi sembra quella della fine degli anni 60, che pativa l'agilità e l'inventiva degli assemblatori inglesi. Sì. Pativa negli anni, alla fine degli anni 60, l'agilità e l'inventiva degli assemblatori inglesi. Ha patito negli anni 90 anche i maiali della Benetton Ford, che guarda caso erano capitanati da quel Flavio Briatore, del quale forse non piace a Turrini, ma che si è sempre rivelato un sagace condottiero sul campo. Sì. Ed oggi la Ferrari attuale, pur con tutta la bravura del povero Alonso, ha un handicap in più. Ha accettato da tempo un regolamento che congela lo sviluppo dei motori. Questo io credo che abbiano dimenticato i suoi ospiti. La Ferrari ha una grande cultura motoristica. Ha accettato questo congelamento e quindi non può battersi sul suo terreno privilegiato, favorito. Direzione sì. Ma io guarda, quando sento parlare di queste cose, Francesco, a me viene in mente maestro Mario Poltronieri, che saluto, e che dice ogni volta: il regolamento per avere una Formula 1 attraente, il regolamento deve essere il più semplificato possibile, cioè deve essere questo: voi dovete fare una macchina con quattro ruote, punto. Se cominciamo a introdurre mille cavilli come adesso, perché il regolamento della Formula 1 sembra la legislazione dello Stato italiano, che è la più vasta e profonda dell'universo mondo, no? Per ogni cosa c'è una legge, c'è un decreto abrogativo, c'è un decreto legge, c'è qualunque cosa. Non esiste alcun paese al mondo che ha così tante norme e leggi come lo Stato italiano. Puoi rispettare un'altra cosa, però il regolamento della Formula 1 è lo stesso. Quindi io credo che con un regolamento così minuzioso e così capillare non si possa fare il bene di questo sport, si può semplicemente introdurre mille orpelli che frenano lo sviluppo. Anche questa storia dei test contingentati io sinceramente non la capisco, sarò retrogrado, però non la capisco, così come non mi piace la normativa relativa alle gomme, perché per vedere un gran premio ormai bisogna avere la laurea in ingegneria meccanica, perché tra soft, tre pit stop e gomme medium, tutto questo non mi piace. Detto ciò, la Ferrari probabilmente patisce più delle altre questo regolamento capestro. Tutti convocati. Caramba, che sorpresa! Sigla! Siamo in batteria, eppure c'è un filo di emozione nel vederla tornare nella sua gara preferita, quella che nuota a memoria, e c'è tutta la squadra italiana, almeno per quelli che sono i posti a disposizione davanti ai nostri monitor. Federica bene, qui si riporta vicino alla francese, 1.56.53 Muffa, 1.56.79 per Federica. Sì, non male come tempo, il passaggio di turno senza alcun problema, sembra anche abbastanza serena. Sì, mi sorprende il passaggio del primo 50, che a me, insomma, scendere sotto di 28 il primo 50 è un po' sempre difficile. Sono sorpresa anche del tempo alla fine, perché in acqua, devo dire la verità, le sensazioni non erano buonissime, cioè, ho cercato comunque di minimizzare il più possibile gli sforzi, però devo dire mi ha sorpreso in positivo il tempo alla fine, quindi poi adesso, insomma, con calma, senza nessun tipo di pressione, perché questa gara, insomma, quest'anno non è stata preparata. Quindi pian piano andiamo avanti, passo dopo passo. Caramba, che sorpresa ci sta, perché insomma eravamo un po' depressi guardando i mondiali di nuoto con Scozzoli, che era accreditato per una medaglia, e con il Re Bianchi idem ieri, che non sono andati benissimo nelle rispettive finali. Usciamo da un'Olimpiade, quella di Londra, con le ossa rotte per quanto riguarda il nuoto, che è stato negli ultimi due lustri uno dei nostri fiori all'occhiello. Ebbene, avevamo bisogno di questa scarica di adrenalina improvvisa da carrambata di Federica Pellegrini, che si presenta in una gara che è la sua gara, ma che non doveva fare, 200 stile libero, improvvisamente questa mattina sui blocchi di partenza delle batterie, perché Lucas le ha detto: vai ragazza, divertiti, e lei ci è andata. Terzo tempo, poi vediamo stasera la semifinale, poi speriamo la finale. Ebbene, avevamo bisogno di questa scarica di adrenalina. Mi fa molto piacere parlarne con Cristina Chiuso, che è stata una campionessa del nuoto e che ce lo racconta ora. Ciao Cristina. Buongiorno a tutti. Antidepressivo Pellegrini. Antidepressivo Pellegrino, purtroppo ieri la giornata non è stata delle più positive per noi, ci aspettavamo risultati ben diversi da Fabio Scozza e Ilaria Bianchi, purtroppo non sono venuti e ora lei è una delle carte vincenti della nostra nazionale, quindi sicuramente è vero che lei dice non mettetemi pressione addosso un passo alla volta, però sì, come sempre è normale aspetti un risultato positivo, che poi può essere una medaglia o meno, ma comunque un risultato positivo da una campionessa come Federica. Sì, ma Cristina, è pensabile il fatto che uno, siamo ai mondiali di nuoto, non siamo alla gara dell'oratorio, gara che Federica non ha preparato, e lo sappiamo, anche se è la sua gara, forse non ha nemmeno bisogno di preparazione, ma è pensabile una cosa di questo genere? Cioè l'allenatore che ti dice vai lì, vai a farla, dai, anche se non eri in programma, presentati ai blocchi di partenza. È veramente così o pensi davvero, perché io voglio fare l'avvocato del diavolo, che ci sia dietro qualcos'altro, cioè la necessità per il nuoto italiano di una Pellegrini che faccia un grande risultato? Ma no, io non da tifoso sono stata la prima a dire l'altro ieri che secondo me Federica avrebbe fatto questo 200. Lei è vero che non ha preparato la gara, però non è che non è allenata, è allenata sicuramente come chilometri meno rispetto agli anni precedenti, è allenata in modo diverso perché anche come lavoro a secco ha cambiato molto il suo tipo di preparazione. Però è allenata e lo ha dimostrato cambiando stile, andando a dorso e nuotando dei tempi di altissimo, sì, livello internazionale. A volte capita che anche senza aver preparato nello specifico una gara tu riesca ad ottenere una prestazione sorprendente. Sì. Quello che ho pensato nel primo giorno di gare è che comunque quelle che potevano essere le avversarie più dirette, come Muffà, come la Barat, qui non si sono presentate nella migliore condizione possibile e quindi il campo partenti diventava inferiore rispetto alle aspettative. Sì, perché non provarci a quel punto? No, perché non provarci? No. Io me lo domando dall'inizio di questi mondiali, me lo domando da quando è stata resa nota la notizia secondo cui Pellegrini non avrebbe fatto le sue due gare di elezione 200 e 400 stile libero, quindi me lo domando da allora, pertanto rimango solo piacevolmente sorpreso di questo, davanti a questa decisione improvvisa, anche perché mi pare che il nuoto italiano, Scozzoli e Bianchi, non stia dando le risposte che tutti ci aspettavamo. No, purtroppo no, purtroppo Scozzoli e Bianchi non hanno ottenuto il risultato per cui erano arrivati qui e sono ovviamente loro i primi ad essere super delusi e abbiamo anche oltretutto mancato qualche semifinale che era realmente accessibile. Quindi non c'è un risultato realmente positivo. È vero che da qui a domenica ci sono ancora tante altre gare. Martina Grimaldi ha preso l'oro nell'ultima gara, l'ultimo giorno era 25 chilometri, quindi insomma lasciamo che entrino tutti in acqua prima di fare bilanci perché si no, ma questo... alla fine. Ma sai, io devo fare il cattivo per contratto, quindi ma va bene, dai, te lo concedo. Grazie, no, mi chiedono una tua considerazione sul fenomeno Meluite. 16 anni. La Melutite è spaventosa, è un spaventosa addirittura? Spaventosa, sì, ha un talento sovrannaturale, sia tecnico che mentale, perché considerate che la stessa Federica è una ragazza molto molto talentuosa, comunque alla sua prima Olimpiade, al suo primo mondiale, non ha fatto questi così straordinari. Questa sembra non sentire nessun tipo di pressione, non sentire assolutamente niente e andare lì e non solo vincere, le Olimpiadi ha vinto qui, record del mondo, è un record del mondo molto difficile, era molto difficile perché era stato ottenuto con i famosi costumi gommati e potrebbe non finire qui, nel senso che oggi potrebbe andare ancora più veloce, poi ci sono i 50, quindi si è spaventosa, un'altra extraterrestre. E ti con il costume. Grazie Cristina Chiuso, ti ringrazio per questo intervento e ti abbraccio con grande piacere. Grazie a voi, Turrini, arrivederci. Grazie Cristina. Allora al volo Marco da Pavia e poi aggiorniamo la seduta domani. Marco? Buongiorno. Ci sei? Eccoci. Sì, allora io volevo fare un intervento sulla Formula 1. Farei in merito delle considerazioni che ho fatto. Io penso che dopo l'epoca di Jean Todt, quindi il team che lui è riuscito a costruire, siano cambiate un po' di cose. Al di là della migrazione dei piloti di una caratura importante, ma penso che siano stati rimpiazzati con dei personaggi di altrettanta bravura e capacità. È venuto quindi subito la differenza... con l'epoca domenicale il primo campionato del mondo vinto in modo un po' rocambolesco. Rocambolesco, sì, è corretto. Rocambolesco è corretto. È chiaro che Marco, adesso dobbiamo chiudere, però è chiaro che è cambiato molto alla Ferrari dopo l'epoca di Jean Todt, di Ross Brawn, di Schumacher, in cui tutto sembrava funzionare in modo perfetto. Adesso nulla sembra funzionare in modo perfetto, ci vuole un po' di ordine, ci vuole probabilmente un'estate nella quale schiarirsi le idee. Adesso arriva questa pausa, sappiamo che De La Rosa proverà con la macchina di 2 anni fa come consentito dai regolamenti a Le Mans. Insomma, poi vediamo. Io resto della mia idea, cioè Alonso numero uno su una macchina che non va. Ci sentiamo domani. Grazie a Franco Piantanelli, autore di questo programma, Filippo Oreggio in regia. Ciao a tutti.